Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Così Barack Obama dalla Florida, nel giorno in cui ottiene nuovamente l'appoggio del Financial Times. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. And I'd ask them to put aside all the speeches. Così Mitt Romney dall'Ohio, prima di farsi sfuggire, Obama potrebbe vincere, è possibile, anche se improbabile. Ci siamo ormai alle battute conclusive della grande corsa alla Casa Bianca. Ma noi cosa ce ne importa? No, ce ne importa tanto, ce ne importa per un motivo quotidiana prassi. È indubbia l'influenza che hanno gli Stati Uniti sulla nostra vita quotidiana, sui grandi equilibri del mondo di cui anche noi facciamo parte. Ma esiste una parte più profonda, più intima, più nascosta, a volte anche più rinnegata, per cui le elezioni degli Stati Uniti fanno parte anche del nostro immaginario. Gli americani, o nel bene o nel male, negli ultimi 50 anni, dal dopoguerra in poi, iniziamo dal momento in cui sono stati considerati i nostri liberatori, fino al momento sono stati i nostri rifocillatori, poi sono stati gli esempi positivi o negativi, a seconda del punto di vista delle nostre tendenze musicali, del nostro gusto, del nostro costume, del pantheon dei nostri divi, andando avanti nel tempo, sono stati il punto, il fulcro delle nostre passioni e le nostre sventatezze politiche. Gianfranco Fini ricorda che fu fulminato sulla via di Damasco in uno scontro di fronte a un cinema in cui proiettavano Berretti Verdi, il film con John Wayne, in cui si vedevano gli americani buoni, i Vietcong tutti cattivi, gialli, brutti, musi gialli, capito? E alla stessa maniera grande movimento che veniva dagli Stati Uniti ha fortemente influenzato tutta una generazione che per anni ha sognato sui miti legati a una visione idilliaca della vita, a una attenzione per la natura, alla musica e tutto quello che segue. Poi andando ancora avanti, gli Stati Uniti, c'è stato il momento fatidico delle Torri Gemelle, ancora una volta sono stati al centro di un'attenzione, ma io sto facendo dei passi veramente folli e veramente arraffazzonati e radicali. Volevo semplicemente dire che oggi se stiamo tutti, e Radio 24 lo sta seguendo, lo seguirà in maniera sempre più capillare, in attesa, apprensione e curiosità per sapere chi vincerà la corsa alla Casa Bianca, lo dobbiamo anche al fatto che per anni siamo stati pieni di musica, di film e soprattutto ora di telefilm che bene o male hanno legato noi a un modello di vita, a un modello culturale. Io qualche giorno fa ho parlato della festa di Halloween e i più oscuri e strenui detrattori hanno detto ci facciamo influenzare da questa americanata. Perché? Perché è logico, l'attenzione agli Stati Uniti è una grande passione, o sono i manifesti di Marilyn Monroe attaccati nelle camerette generazioni di ragazzi, o è questa sorta di viscerale preconcetto che tutto ciò che viene dagli Stati Uniti è un'americanata. Beh, oggi vorrei sentire dal mio pubblico quanto hanno contato, come hanno contato, qual è stata la presenza del mito americano nella vostra esistenza. 800 24 0024. Vi abbiamo tanto aspettato. Perché ci avete messo tanto tempo per venire qui? Non capisco. Perché tanto per venire a Roma? Ah, yeah. A long time. Molto difficile. Now, everything's over. We're here. Siamo qui. What's the matter? Paura? No paura. Contenta. Tanto contenta. Non sembra vero. È stato tanto brutto. Un grande rientro. Questa mattina mi ha scritto un ascoltatore: non mi interessa chi vincerà la corsa alla presidenza degli Stati Uniti, ma mi interessa sapere quando tornerà Giuseppe Sansonna. Lo accontento. Questa mattina è in studio con me. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Allora, come iniziamo questo excursus? Attraverso il cinema innanzitutto, che è lo strumento immaginario collettivo più frequentato, tuttora, nonostante la centralità della televisione nella vita della famiglia italiana. La televisione poi è andata lentamente a sfumando, tracimando nel telefilm come centralità. Non è più la TV generalista che ispira l'immaginario, ma è il telefilm americano, soprattutto americano, che passa attraverso la televisione, soprattutto la televisione satellitare. No, qui invece siamo nel 1946, le macerie della guerra sono ancora fumanti e Roberto Rossellini dà vita a Paisà, questo film che racconta episodi, l'arrivo degli americani nella penisola, che quindi, come abbiamo sentito nella clip, sono accolti come liberatori. C'è questa prostituta costretta dagli stenti della guerra, Maria Michi, che accoglie l'americano bello, solare, ed è una sorta di speranza che si incarna in questo viso dolce, però una speranza già disillusa, perché poi lui andrà via senza restare con lei. Quindi c'è una sorta anche di presagio di questa caduta futura poi dell'illusione. Ecco, non vorrei fare una trasmissione passatista legata soltanto alle generazioni ormai al lumicino come la mia, e pregherei di chiamare all'800240024 anche quelli di conio più recente, che comunque sentono fortemente, ma o come antitesi da combattere, da cui bisogna prendere le distanze, o come similitudine da incorporare in se stessi, il mito americano. Quello che posso dirti rispetto a questa immagine, questa iconografia, che oggi sembra lontana, appannata, ma era molto vivace nella mia generazione, degli americani come persone belle, ricche, che avevano tanta cioccolata e tanti bei sorrisi, che venivano accolti dalle nostre donne, dalle donne che uscivano dalla guerra, quindi erano donne disastrate, erano donne che si facevano belle come potevano, in maniera arraffazzonata e molte volte improvvisata, per i liberatori. La femmina italica che si concede al liberatore, magari per un paio di calze di nylon, o semplicemente per il fatto che era bello, era vincente, era forte, era qualcosa che non apparteneva alla nostra generazione di uomini macilenti, di uomini soprattutto frustrati da una sconfitta, erano delle immagini più forti, su quale poi si innesta tutta la reazione e tutto quel senso di disprezzo rispetto all'americano, visto come americanismo. Ah, tu sei l'americano, imiti gli americani. I nostri genitori segnavano il mito americano che noi leggevamo attraverso i nostri fumetti, i primi programmi televisivi, il nostro immaginario, come qualcosa deleterio. Anche voi fate gli americani sono tutti stupidi, gli americani vedono gli italiani come un popolo da colonizzare. 800240024. E a pensare che questo faceva tarza. Ma rimettila a posto. Non te lo voglio qua dallo specchietto. State fermi un momento che ve ne faccio una mentre lottate a rivia. Ecco Marcello. Mister Robert? Ragazzi, ricominciamo, andatevi. Oh, sveglia! Mister Robert! Silvia! Look! A Marcello, voi ce ne devi incontrare tutti. Fai il favore, te ne vuoi andare, ma te ne vuoi andare. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Niente, io volevo dire una cosa abbastanza ovvia per un ragazzo di 34 anni che penso che tutte le persone della mia generazione possono condividere. È indubbio che l'influenza, soprattutto a livello televisivo, che abbiamo subito da parte della TV americana è fortissimo, cioè io sono cresciuto come tantissimi miei coetanei guardando Happy Days, no? Il mito di Fonzi, questo figaccione con tutte le ragazze che cadono. Le sa che Happy Days era una finta ricostruzione degli anni 50, in realtà era stato girato in un periodo molto successivo. Sì, sì, lo so, era un po', è vero, un po' posticcio, però è indubbio che poi quando io avevo magari 15-16 anni, guardare quel modello mi gasava tantissimo. Quindi lei sta parlando seconda metà degli anni 70 più o meno, primi 80? No, insomma, io sono del 78, quindi io lo vedevo, magari erano anche repliche, questo sicuramente. Erano repliche, sì. Giuseppe Salzoda, resti lì a mare, Giuseppe Salzoda. Erano repliche, perché anch'io sono coetaneo dell'ascoltatore, e quindi negli anni 80, metà degli anni 80 furono replicati, erano stati girati alla fine degli anni 70. Sì, era già una replica, era una edizione originale. Fonzi, una versione caricaturale eppure seducente, era un paradosso vivente perché imitava Marlon Brando, il selvaggio, James Dean, in forma caricaturale. Poi, come tu hai insinuato, aveva questo rapporto un po' oscuro con lei. Mario, Marion, era d'accordo sul fatto che ci fosse una storia clandestina di fosco adulterio e di sesso carnale fra la madre di Ricky Cunningham e Fonzi? È naturale. Gianluca, mi stai stuzzicando, perché devo dire che è stata un po' la mia fantasia. Esatto, ma quando è che concluderanno questi due? Anche perché lo teneva dentro casa. Il marito era naturalmente un povero eunuco, un povero signore, com'è, raggiunto a pace e sensi. L'unica donna in realtà capace di andare oltre il bacio, che sembrava la soglia invalicabile della promiscuità sessuale per tutte le ragazze, anche di Fonzi, era la madre, che avendo generato Ricky comunque almeno una volta l'aveva data nella vita. Quindi Fonzi probabilmente aveva come orizzonte di appagamento carnale la signora Cunningham. Sì, era il fulcro eschileo di questa vicenda. Però anche vicenda, in questo, Mario, era una cosa tipicamente americana. Alle nostre latitudini ancora era totalmente incomprensibile, inimmaginabile che una signora sposata, con figli, con un marito, potesse lasciarsi andare, cosa oggi frequentissima nelle tante categorie femminili, con un ragazzo più giovane di lei, per il puro, solo e unico piacere. Poi avevo una domanda da fare, ma visto che, voglio dire, la TV, la cosiddetta TV generalista, diciamo che il gruppo Mediaset ha offerto al pubblico con grandissimo successo, ha tratto secondo me grandissimi spunti poi dal modello americano. Su Drive-In, che è stata uno spartiacque della televisione italiana. Drive-In era la ricostruzione un po' più bombato, un po' più su un immaginario consumistico e femminile berlusconiano di quelle che erano l'habitat di Happy Days. Esatto. E la mia domanda era, ma alla fine oggi non potremmo sapere, magari non so, un'assurdità, ma come sarà la televisione di domani guardando quello che oggi è il modello americano di TV? Cioè non funziona più. Ma noi la stiamo già guardando, basta guardare un canale satellitare, guardano esattamente i serial televisivi degli zombie, dei vampiri, dei mostri, dei poliziotti, degli spaccacadaveri che vediamo oggi noi. Questa è una lettura che ci può stare, ma invece a livello di show, più di spettacolo, al di là dei telefilm che in effetti oggi vengono dati. Ma guardi, io so che la TV satellitare ormai è una TV globalizzata. Se la guarda, sono tantissimi canali, vede esattamente quello che guardano in tutto il mondo, ma non soltanto gli americani, in tutte le parti del mondo in cui c'è una televisione, una civilizzazione di tipo occidentale. Grazie. Però Giuseppe Sanzona, noi ci eravamo fermati su un film molto importante. La dolce vita è stata risucchiata da Happy Days. Vedi come è facile la stratificazione e la sovrapposizione degli immaginari? È vero. Nel 60 invece abbiamo la rivisitazione del mito, che viene visto in maniera satirica, critica. Qui c'è paparazzo, che è un termine che nasce con la dolce vita, ovvero il fotografo che va all'alba in questa via Veneto, appunto, che ancora è Fabrizio Corona, uno degli ultimi miti della TV, certo, generalista, il più decadente dei miti delle attempate, diciamo, massaie della TV generalista. Decadenza totale, verticale, e Corona, però all'epoca era paparazzo e va a beccare questo divo, va a un po' a vampirizzare l'immagine di questo divo ubriaco che si sveglia in questa fuoriserie con una lucinica onomatopea in questo cognome, che doveva, certo, anche suscitare. Certo. E poi c'è Anita Ekberg, che appunto è svedese, ma rappresenta comunque la diva legata al cinema americano, che era un po' quello che si cercava di vampirizzare in Italia, di osservare, era un po' il mito, appunto, che si ricava. Vedi, anche Fellini vede gli americani come un soggetto da studiare e, se possibile, da cui si poteva prendere qualcosa. Gli americani che passeggiano per via Veneto, i divi americani, erano quelli dietro cui si creava questa corte dei miracoli, a cominciare dai fotografi che dovevano fotografarne gli amori illeciti o al di fuori della regola. Noi eravamo un popolo che le amanti venivano arrestate per adulterio e venivano messe in galera. Sentiamo Gualtiero. Gualtiero, buongiorno. Buongiorno. Io ho 62 anni, quindi parlo di una fase della televisione e del cinema americano molto importante. Per me il cinema americano era Frank Capra, era James Stewart, e quindi io, come ragazzo che veniva da una famiglia di contadini, quindi culturalmente poco attrezzati, quel tipo di televisione mi ha insegnato, oltre che giocare a scacchi, anche di credere in quell'ottimismo. Poi dopo nella vita ho capito quanto era facile, però per me è stato importante l'ottimismo di credere in se stessi, di potercela sempre fare. Che era importante in un momento psicologicamente di autoflagellazione come era il dopoguerra. Esatto. Quindi per me io devo molto. Per esempio una cosa che ho sempre notato è che nel cinema americano compariva la parola i soldi del contribuente. Ecco, questa è stata un'educazione civica per me importante. Nel nostro cinema poi per tanti anni non l'ho mai sentita questa frase. Sì, perché poi è iniziata un'operazione di demonizzazione. Tutto ciò che lei sta elencando come valore positivo veniva visto come una sorta di moneta del colonialismo americano nei nostri confronti. Erano gli anni, per noi anni di piombo, gli anni della rivolta, in cui gli americani erano la CIA, erano le forze occulte, erano quelli che istigavano le stragi. Questo era quello che si diceva alle nostre latitudini. Giuseppe Sanzonna, però sul ricordo cinematografico di questo nostro ascoltatore. Beh, Capra, appunto, la vita è una cosa meravigliosa, col suo sentimento smodato, forse anche eccessivamente smielato, però sicuramente aveva una virulenza positiva, contrapposta soprattutto al disincanto nostro italico, in cui noi non crediamo praticamente a nulla. Pieno neorealismo, in cui si parlava, sì, di disgraziati morti di fame, di borgatari, di mignotte, di papponi. Quello era il nostro immaginario. Invece lì la notte di Natale, mentre stai per buttarti appunto nel Tevere, cioè, immaginario, e arrivano tutti quanti e tutti ti portano soldi e tu puoi uscire dalla crisi. C'è sempre una possibilità pragmatica di uscire da una crisi profonda. Questo comunicava Capra, più o meno mistificatorio, però in Italia c'era già invece un forte disincanto rispetto a questa logica. Massimo. Sì, io mi rilascio un po' a quanto ha testimoniato l'ascoltatore prima. Quello che io rilevo effettivamente, la differenza del nostro cinema rispetto a quello americano, è che l'ho trovato una specie di gran cassa, una sorta di, come dire, propaganda. Nel senso che comunque il modello americano è sempre stato portato avanti, io parlo dei film in generale, come modello vincente, soprattutto anche nel tema giustizia, dove comunque il crimine paga sempre, a differenza di alcuni lungometraggi nostri dove la mafia sembra farla da padrone e comunque ci mette sempre in una posizione psicologica di dire non si può fare nulla. Lei, Massimo, a che generazione appartiene? Così cominciamo a classificare anche a seconda delle... Io sono del 64. 64, quindi è giovane lei rispetto, sì, all'ascoltatore di prima. Quindi lei aveva questo messaggio dei film polizieschi americani, erano i film in cui in realtà il messaggio che passava era che ci fosse una sorta di frisson vincente nel far parte, esatto, del cattivo. Il cattivo in fondo era quello che era molto più affascinante del poliziotto buono. Beh, comunque se vogliamo guardare, anche se proviamo a fare una specie di indagine a campione, sembra quasi che la giustizia italiana sia infallibile, cioè, non sia infallibile come quella americana. Cioè, i tribunali americani funzionano meglio, cioè l'idea che un certo tipo di sistema funzioni meglio. Sì, i film iniziavano e finivano, così, iniziavano e finivano o sulla sedia elettrica o nella camera gas, o in una morte violenta. Vediamo i vari episodi della, come si chiama, della specie di pizze sulla mafia, i loro di fiction che sono stati fatti anche di, diciamo, non parliamo proprio di lungometraggi, ma proprio di telefilm, insomma. I Sopranos, dove, questi qua. Chi poi purtroppo è triste anche ammetterlo, è anche la verità, però sembra quasi privare anche la possibilità, almeno in astratto, di far pensare che si possa cambiare. Mentre il modello americano, subito, questo sistema è infallibile, almeno nella stazione del sistema. Cioè, la giustizia funzionava, quindi questo era un elemento che ci trovava molte volte in situazioni di perplessità rispetto poi alla giustizia raccontata alla nostra fiction. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. C'è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso. E ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. 80024 0024, quando poi i miti americani ci hanno talmente intriso da far immaginare noi stessi come americani, ci siamo inventati il western all'italiana. Sergio Leone diceva che quando John Ford guardava fuori dalla finestra e guardava le verdi praterie, cioè vedeva l'epica americana, lui invece vedeva il mondo verghiano, la lotta per la roba, per la sopravvivenza darwiniana, che era molto italiana, molto del sud Italia, e l'ha trasferito in un western immaginario, tra l'altro traslato dal mondo dei samurai, da cui lui copiò filologicamente. Joimbo, La sfida del samurai, fu il pretesto per creare Per un pugno di dollari a metà degli anni 60, squadernare le regole del cinema western mondiale, finire sulla copertina di Andy Life con la barba fatta di spaghetti. Ecco, tu pensa che in realtà questo trash, questa emulazione di tono minore dell'epica americana attraverso il film western girata sulle montagne della Tolfa, davanti al mare di Roma, poi è stata riacquisita dagli americani. Tarantino ne ha fatto l'immaginario più forte di quella che oggi è la filmografia americana, secondo me. Tra l'altro, appunto, creando il suo imminente film Django, che appunto è un eroe, appunto, creato dagli epigoni addirittura di Sergio Leone, una sorta di riciclo continuo di un eterno presente in cui tutto è uno specchio barocco, in cui si rivivifica questi miti. Ma c'è appunto la ferocia, però, la ferocia che hanno introdotto gli italiani nel mondo del western, che invece era progressista, era progressivo, era verso le illuminate sorti progressive, in piena luce quello western, il western americano, era un'epica positiva, non negativa come quella. Io ricordo quando ci fu una levata di scudi generale qualche anno fa nei confronti di Tarantino, delle migliori menti del nostro cinema, Bert Müller per prima, ci avevano con Tarantino. Forse uno dei pochi casi in cui il cinema italiano, in una sua emulazione fallita, poi ha nuovamente influenzato quella che è la filmografia americana. Roberto, buongiorno. Ah, buongiorno. Desidero raccontare un episodio che ha costituito l'antidoto al modello americano che trionfava dopo la guerra. Nel 1954 mi sono imbarcato come mozzo su una nave che andava negli Stati Uniti e siamo sbarcati a Norfolk, Virginia. E io ero ansiosissimo di vedere questa America di sogno. Andiamo, vado a terra, incomincio a camminare e mi sono accorto con orrore che c'erano i bagni per i bianchi e i bagni per i neri. E lei quale ha scelto? In quanto italiano? Ho scelto quello per i bianchi perché lì non si poteva scherzare. Soltanto il fatto di guardare una ragazza per strada, un mio collega l'ha fatto, l'ha guardata solo, si è fermato un poliziotto in motocicletta, gli ha chiesto i documenti, gli ha detto che se ci avesse riprovato avrebbe passato la sera. E quindi lei ha toccato con mano quella che era l'America del maccartismo, ecco, non si scherzava. Non solo questo, le panchine nei giardini, perché poi mi sono appassionato e ho cominciato a vedere. Nei giardini c'erano le panchine con scritto white men vuote, perché stavano tutti a lavorare, le panchine scritto colored men piene e i neri in piedi perché non potevano sedersi. Sugli autobus c'era due terzi dell'autobus per i bianchi, l'ultimo terzo separato da una griglia come quella che si mette per i cani nelle automobili, e c'erano tutti i neri ammucchiati. E potrei continuare per ore. Da allora... No, ma è molto interessante perché questo è un aspetto dimenticato, diciamo, il cammino per cui oggi uno dei due candidati, anzi il candidato che è ancora che è uscente, è un signore di pelle nera, è stato un cammino faticoso e lungo. Infatti, se lei parla con degli americani della mia età, dei neri americani, cioè degli afroamericani, non ci credono ancora che sia successo un fatto del genere. Comunque ho visto cose orribili. Tornato in Italia... Che anni erano, Roberto? Dunque, era esattamente il febbraio 1954. Ecco, perché vedere. Sono tornato in Italia. Da noi ancora non arrivava quell'anno la televisione, immagini un po'. Esatto. E sono tornato in Italia e ero sconvolto perché tutte le mie convinzioni sono saltate. Allora ho cominciato a leggere libri sul problema razziale negli Stati Uniti, mi ricordo un volume molto interessante di Russell, e di lì ho incominciato un nuovo percorso. Che è stato molto molto interessante perché alla mancanza di critica in tutti i sensi di quello che veniva dagli Stati Uniti io sono sempre riuscito a contrapporre una visione realistica. Ma sai che anche al nostro paese in quel periodo non è che c'era tutta questa sensibilità, poi si è affinata attraverso gli anni duri della contestazione con tutti i limiti che ha avuto, perlomeno ci ha fatto fare un passo avanti nell'apertura e nella leggerezza verso la civilizzazione. Io non voglio entrare in percorsi astrusi, ma siamo diventati più leggeri nel nostro giudizio, prima erano molto manichei. E poi secondo me l'opera che è stata determinante per chi avesse interesse a approfondire è stata Morte di un commesso viaggiatore di Miller, perché certo, lì si vede veramente in 120 pagine qual era la condizione del lavoratore americano. cioè nella definizione che noi avevamo tirato fuori fra amici con i quali scambiamo queste idee, è che l'americano nasce schiavo, muore e vive di paura e muore terrorizzato. Cioè non c'è un attimo nella vita del lavoratore, in particolare del venditore americano, che rappresenti un momento di riposo, un momento di vero relax, perché la paura di perdere il lavoro condiziona tutta la sua vita. La paura di essere licenziato un anno prima che scada il limite alla pensione, quindi vedersi restituire i contributi che ha versato e non avere più la pensione. E quindi io consiglio a tutti quelli che vogliano veramente approfondire cos'è la società americana di leggere Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, anche perché è un testo, diciamo, molto realistico, in cui ritroviamo anche dei punti di contatto con la nostra situazione attuale. Ma la prego, Roberto, stia in ascolto con noi di quello che stiamo per mandare in onda, perché in realtà è l'altra faccia rispetto a quello che dice. Quando l'americano con i soldi arrivava in Italia lo vedevamo come una gallina da poter spennare. Peppi, con sta carta te stai a giocare 800.000 lire. Beh. Antonio, non si danno suggerimenti al proprio partner. Ma se preoccupi, signore, io con sta carta non c'ho bisogno di suggerimenti. È la vecchia che manca strada. Ma se te lascia il 4 a tavola, tu cerca di ragionare, non mi buttare il 3, che così se becco il 7 è bello. Ma se io te lo facevo in mano a te il 7 è bello. Come faccio a sapere che ce l'ha la vecchia? Quando te guardo fisso e storco la bocca dalla parte, che vuol dire? Che vuol dire? Che c'è il ticket nervoso, c'avevi pure la ragazzina. Perché ancora non eravamo molto sensibili al commesso viaggiatore citato da Roberto? Perché ancora noi vedevamo Alberto Sordi che, con le carte in mano, nella sua vita da reietto disperato a Ruffapopoli, cerca di spennare una volta l'anno per tutta la sua comunità di reietti la vecchia americana. Sì, ma è un tentativo fallimentare, per come ci racconta. Chi è la vecchia Comencini, americana? Perché con Bette Davis non si può scherzare. Questo che Comencini fa nel 72 con Lo scopone scientifico è un'allegoria feroce del piano Marshall, perché gli americani sono Bette Davis e un Joseph Cotten che sembra appunto von Stroheim in Viale del Tramonto, che fa da ex marito e da attuale autista e cavaliere servente della perfida strega cattiva Bette Davis, che arriva e gioca come il gatto col topo con questi borgatari che sono sordi e la mangano, che si siedono al suo tavolo speranzosi ogni volta col proprio talento di poter vincere, ma in realtà perderanno sempre finché la figlia risolverà dandogli una bella torta avvelenata alla strega, mandandola in America. Sì, perché la vecchia americana, il sommo sadismo era di non prendere soldi ai ricchi, di rubare le ultime briciole ai morti di fame e di illuderli che avrebbe dato la fetta. Gilberto. Sì, ciao. Buongiorno. Buongiorno, io chiamavo perché ho avuto un'esperienza con gli americani un po' diversa, meno epica, cioè io ho vissuto in un paese del Brindisino, in Puglia, dove c'era una grossa base dell'Air Force americana. Fino a che anno? Fino alla caduta del muro di Berlino. Cioè, poi è stata quando c'era la guerra fredda, poi non c'è stato più bisogno. Sì, era un grosso radar che per ascoltare le trasmissioni diciamo dell'est, che venivano dall'Albania, dalla Jugoslavia, Jugoslavia eccetera. Però l'esperienza che ho avuto io l'ho avuta con, appunto, con questi militari, tutti giovani dei miei coetanei, che vivevano fuori dalla base, affittavano delle case nel paese e vivevano nel paese. Come vivevate voi questo contatto diretto? Cioè la differenza era molto marcata, cioè noi eravamo, diciamo, rispetto ad esso è come se fossimo gli albanesi o ancora peggio gli immigrati africani di adesso, cioè loro avevano tutto, noi avevamo poco e niente allora, cioè parlo della metà degli anni 70. Noi parliamo 30 anni dopo la liberazione. Sì, certo, quindi in cui non c'era più questo ricordo della guerra, noi avevamo però questo rapporto veramente amichevole in cui ogni giorno ci emancipavamo di più da tutti i punti di vista, musicalmente prima di tutto, perché loro avevano la musica appena arrivata, appena uscita, loro già avevano gli LP recentissimi, avevano gli impianti stereo più belli del mondo e noi ci nutrivamo di questo. Cioè ancora devono arrivare da noi, diciamo, l'esplosione della tecnologia consumer, come certo, il grande mito omologante, perché oggi tutti ci sentiamo uguali nello smartphone che abbiamo in tasca. Certo. Giuseppe Sanzonna, devi concludere. No, no, ma è interessante questo, il discorso dell'influenza culturale, perché noi l'America è un grande paese complesso e pieno di sfaccettature, quindi il jazz, certe avanguardie musicali appunto venivano proposte anche a livello popolare, quindi questo contatto che c'era ha innovato anche molto la cultura italiana di quegli anni, sicuramente. Però la tecnologia che ha reso possibile poi il livellamento tale non viene dagli Stati Uniti, non viene dal Giappone, come ci dice Sabina. Buongiorno a tutti. Allora, faccio una piccola premessa. Io sono figlia di un ufficiale di Marina che è stato in Marina fino agli anni 60. Ufficiale gentiluomo, naturalmente. Sì, e quest'uomo per tutta la vita, per tutta la nostra infanzia ci ha raccontato dell'America cose incredibili, perché lui partecipava ad esercitazioni imbarcato e quindi parlava di queste navi americane, della tecnologia, eccetera. Il tutto veniva poi avvalorato da questa televisione americana che ci arrivava, no? Poi anche la fantascienza, la triste realtà è comunque del Vietnam, lui la raccontava come una cosa quasi meravigliosa, anche se fosse Beh, è un soldato, un militare, aveva il mito dei Marines. Militare, esatto. Io quindi nel tempo, bene o male, questa cosa è cominciato anche, vuoi anche perché vai sempre controcorrente. Guarda che il Vietnam c'è stata una filmografia nella quale ci siamo tutti identificati, inutile fare oggi i puliti a bocce ferme. Sono stati film fantastici sull'epopea del Vietnam, Giuseppe Sanzon. Beh, anche perturbanti come Il cacciatore di Cimino, insomma, come Apocalypse Now, insomma, che mostravano, ripeto, la parte anche anticorpale dell'America che riesce a mostrare nel lato oscuro con sublime capacità creativa. È stata la grande epica guerresca di due decenni, nel bene o nel male, su quello siamo ispirati. Fino a Rambo, appunto, la versione nazionale popolare. La fase decadente. Quindi, Sabina, lei cosa doveva, come voleva concludere? Che in realtà poi. Quindi, raccontando queste cose. Mi sono resa conto che ai miei figli non gliene poteva fregare di meno. Io ho un figlio che è il minore di 24 anni e lui identifica, come noi abbiamo identificato nella nostra generazione gli Stati Uniti, lui il Giappone. Esattamente quello che accade a casa mia, ho detto più volte. Dal cartone animato a vuoi la tecnologia, se tu gli dici tecnologia non ti dice Stati Uniti, ti dice i giapponesi. Se tu dici guerra, per lui il Vietnam sono le guerre puniche, e ci sono i nuovi videogame che parlano di guerre legate più che altro a conflitti medio orientali, a guerre in conquiste e riconquiste città da parte dei terroristi, quindi molto più legato all'attualità. Veronica. Buongiorno, grazie a tutti. E niente, io sono del 78, quindi per me l'America sicuramente è stata un immaginario degli anni 80, però a me rimane l'idea di una grande illusione e legata a un ricordo di mio nonno che diciamo è stato ferito durante la Seconda Guerra Mondiale, credo in una campagna nell'Europa dell'Est, e poi si è fatto prigioniero dagli americani, e lui un po' Cary Grant, un po' Alberto Sordi, e mi raccontava che durante questa prigionia un po' surreale, veniva trattato benissimo, oltretutto gli facevano fare tipo spettacoli teatrali, improvvisazioni, recite, che per lui furono un momento proprio di distacco da una realtà che era la realtà poi della famiglia che era rimasta in Italia. Sembra vedere Polvere di Stelle, il racconto di Polvere di Stelle. Esatto. La ringrazio, devo salutarla perché vedo che il tempo corre veloce e volevo mostrarvi un altro aspetto del mito americano. Immaginate una SPR, una spa romana, un luogo dove la gente va a rilassarsi, a fare saune, a immergersi in piscine con delle luci colorate, con fumigamenti aromatici, però per soli americani, in cui c'è un cartello, è vietato l'ingresso agli italiani, perché lì ci stanno americani che non vogliono vedere gli italiani per una serie di ragioni. In America, you play football, you got a winner and a loser, okay? I don't like this. Vi leggo alcune frasi di questo film che è in lingua originale, sono stati intervistati questi americani, belli, anche meno belli, anche vecchietti, anche grassone, ma tutti a bordo piscina, dicono gli italiani conoscono meglio tutti l'animo umano, non credono in niente, si autodenigrano perché così facendo si autoassolvono, perché ci pensi qualcuno a criticarli, oppure gli italiani non hanno bisogno dell'analista perché dopo 2000 anni di cattolicesimo e quindi di confessione al prete, un secolo di psicanalisi sono niente al confronto, e via dicendo, parlando gli americani e Berlusconi, gli americani barocchi, gli americani che cantano e via dicendo, insomma un insieme di luoghi comuni sugli italiani che sono stati registrati dalla viva voce di americani morbidamente immersi nella loro spa, che possono permettersi di non fare entrare italiani nel loro luogo. Vi indignate? Molte persone sono indignate quando questo filmato è stato messo su YouTube da Luca Martera, che è un documentarista, un autore, anche partecipato spesso alle nostre trasmissioni. Luca, come è venuta fuori l'idea di questo documentario realtà? Ciao Gianluca e ciao Giuseppe. Sì, l'idea è molto semplice. Io da 2 anni mi divido tra Roma e Milano e al mio ritorno ogni volta nella capitale, in generale in Italia, insomma anche a Milano, noto con sempre maggior disappunto tutto quello che non funziona e io credo che sia semplicemente dovuto al mio processo di americanizzazione. E non sto parlando di quello che non va in Italia, i problemi grossi, la mafia, la corruzione, no. Semplicemente educazione, rispondere ad un'email ad esempio. In America lo fanno, funziona. Quindi tu hai girato questo Italiani non graditi nella spa romana prendendo degli americani che hanno parlato male degli italiani. Tutti sono indignati, ma rivela la realtà di questo documentario. Sì, la mia era è stata una piccola provocazione perché non mi interessava, si tratta naturalmente di un falso e non mi interessava puntare il dito sul giochino vero o falso. La vera provocazione che c'è dietro è che le frasi che tu hai citato prima sono rispettivamente di Gore Vidal, romanziere, saggista famoso, morto qualche mese fa, e di altri autori italiani, soprattutto saggisti, scrittori e giornalisti. Quindi ho messo in bocca a questi americani frasi, soprattutto di italiani, per parlare male degli italiani, e molti ci sono cascati perché hanno detto sono solo una somma di luoghi comuni, invece dietro c'erano Leonardo Sciascia, Paolo Poli, Enzo Biagi, Dario Fo, e così via. Gran parte degli intoccabili della nostra cultura. Quindi hai giocato sul fatto che insomma il contatto contaminante, a volte omologante, a volte stimolante con gli americani, suscita anche questi corticircuiti. Ah, c'è Gore Vidal, lo scrittore americano. Domandiamo anche a lui. Buonasera, signor Vidal. Possiamo disturbarla 2 minuti? Vi domandate perché mai uno scrittore americano viva a Roma? Prima di tutto perché piace i romani, che si frega niente se sei vivo o morto. Sono neutrali, come gatti. Giuseppe Sansone, in conclusione abbiamo sentito Luca Martera con il suo documentario fake, falso, che però ci ha rivelato uno dei nostri aspetti controversi nel rapporto con gli americani. Qua chi siamo? Velocemente. Qui, questo è Roma di Fellini del 72 e anticipa un po' l'operazione di Luca, perché invece prende Gore Vidal che viveva a Ravello in Italia e gli fa fare un'analisi della decadenza italiana. Decadenza italiana di cui avremmo possibilità di avere massima espressione nella nostra corsa e maratona nel seguire le elezioni americane. A domani. Thank you.